Siamo con Peppe dell'Associazione Culturale Baruffe per parlare della presentazione del libro di Ian Campbell, Il massacro di Addis Abeba, una vergogna italiana, il 5 ottobre alla Palazzina Vespignani ad Albano Laziale. Peppe, ben trovato. Grazie, ben accolto. Raccontaci un po' di questo libro. Sì, un bel librone, più di 500 pagine, di comoda lettura, di un forte corredo fotografico, prodotto da questo signore, Ian Campbell, arrivato in Etiopia per svolgere la sua attività di ingegnere, si trova in una località vicina al complesso conventuale di Debra Libanos, ovviamente a monte di Addis Abeba, e scopre che in quel posto, nel lontano 1937, ci fu una strage di sacerdoti, diaconi, eccetera, eccetera, perpetrata dalle truppe occupanti fasciste, eccetera, eccetera, in seguito all'attentato che c'era stato il 19 febbraio del 1937 al viceré Rodolfo Graziani e alla sua corte. Nel caso però il libro si occupa della rappresaglia compiuta dalle, essenzialmente, da tutte quante le strutture militari e civili coloniali italiane nei confronti ovviamente della popolazione residente, e dettaglia questa operazione su larga scala che si è articolata in modo, si è focalizzata in tre giorni, ma che poi, cioè tra il 19 e 20, 21 essenzialmente febbraio del 1937, ma che poi è proseguita, ha dato il là a una larga operazione di polizia. È quindi un titolo di carattere storico, con recupero delle ultime testimonianze reperibili di chi in qualche modo è stato presente, con recupero della documentazione fornita essenzialmente dagli stranieri all'epoca presenti in Addis Abeba, e quindi i vari consolati, consolato inglese, francese, americano, e poi anche altri che erano presenti, medici, un medico ungherese in modo particolare, una parte della comunità almeno greco-armena che era presente in Addis Abeba. C'è questo cahier de doléance che ci illustra la forte presenza civile occidentale, nazionale, italica, eccetera, eccetera, in quel paese. Quindi una documentazione, testimonianze orali e documentazione scritta, questo? Sì, documentazione, okay. Sì, anche recupero della documentazione interna, cioè i rapporti tra Roma e Addis Abeba, e quindi le comunicazioni tra i vari ministeri delle colonie e il viceré. Poi, siccome Graziani è rimasto ferito nell'attentato, nell'azione della resistenza etiope, quindi è stato sostituito da altre figure, quindi, e soprattutto cioè chiarisce la funzione del federale del Partito Nazionale Fascista, Guido Cortese, che è appunto un vero massacratore assassino, che tra l'altro non ha pagato assolutamente nulla in tutta, tranquillamente passato per altre carriere prefettizie, cose, eccetera, eccetera, per poi sparire e morire nel suo letto, tranquillo. Sì. E poi c'è documentazione aggiuntiva per quanto riguarda le figure della intellettualità, dell'elite culturale etiopica, che sono state massacrate nell'occasione attraverso passaggi successivi, e appunto altri percorsi sempre di carattere repressivo, quindi le deportazioni che sono arrivate in Somalia, in Eritrea, in campi presenti in Somalia, Eritrea e anche in Italia, perché poi sono stati pure deportati alle Tremiti, se non vado errato, sì. E quindi un'operazione che poi è continuata praticamente fino alla fine dell'occupazione fascista dell'Etiopia, quindi fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi la sconfitta quasi immediata nel Corno d'Africa, quindi fino al 41 con il ritorno degli inglesi. Quindi la rappresaglia immediata durò giorni, provocando migliaia di vittime. Sì, c'è questa cosa incredibile che appunto Halloween concentrati in operazioni diurne e notturne. Diurne, cioè con, a seguito della convocazione di tutti i fascisti dell'epoca che presenti a Addis Abeba, un'assemblea chiamata un'assemblea davanti alla casa del Littorio, tenendo presente e quindi con tutti i civili che erano quindi gli operatori del processo di colonializzazione in corso, oltre al fatto che lì era presente una divisione di camicie nere, cosiddetta divisione Tevere, che comunque era composta da 13.000 persone, insomma assassini, e quindi c'è una bella massa di questi signori che vengono sostanzialmente scatenati anche con la copertura del governo centrale romano, quindi il Benito, che dà appunto il benestare, il ministro delle colonie, Lessona, eccetera eccetera. Quindi si scatenano questi che e ammazzano tutti quelli in pratica una zona di esclusione dove ovviamente ci stanno gli italiani e altre strutture di carattere internazionale, per il resto danno mano libera, carta bianca, come si dice. Sì, sì. E ammazzano tutti quelli che incontrano la strada e con i metodi fra l'altro più barbari, e di notte invece cominciano a dar fuoco a tutte quante gli agglomerati urbani, tenendo presente che lì all'epoca Addis Abeba c'aveva poco più di 100.000 abitanti, ma era fatta quasi esclusivamente di abitazioni cortetto di paglia, insomma, certo, no? Quindi, certo. E poi grandi alberature, eucalipti, eccetera, per cui si sviluppano incendi assolutamente mostruosi, vengono utilizzati lanciafiamme e altri strumenti più banali, e le famiglie che beccate all'interno vengono, cioè, mogli, figli, donne, vecchi, tutto quello che è, che prova a scappare, vengono rispediti nel fuoco, eccetera. E poi ci stanno altre operazioni macabre, sì, che vengono descritte nell'opera. Quindi un momento di riflessione, se è possibile, cioè sì, si dovrebbe ricavare da quest'opera qui una attenta riflessione su quello che stiamo dicendo e quello che stiamo facendo pure oggi. Peppe, la giustizia internazionale si è occupata di questa vicenda? La giustizia internazionale se n'è fregata altramente, perché cioè, poi dopo alla conclusione del secondo conflitto mondiale l'Etiopia, comunque il governo ristabilito dell'Etiopia, ha tentato attingere ai tribunali internazionali per montare processi contro i criminali di guerra. Questa cosa è stata, come in altre situazioni, insomma, per esempio pure per la Jugoslavia, insomma, si è trovato il modo, il nuovo governo italiano ha trovato il modo di azzerare, non c'è stata assolutamente risposta, cioè ci sta chiaramente tutta la documentazione delle attività legali etiopiche e quindi l'indicazione di tutti i massacratori, eccetera eccetera, ma questo non ha avuto assoluta corrispondenza. Tra l'altro in Italia invece Graziani, poi che insomma sappiamo che poi ha avuto altro brillante percorso, è stato processato, condannato in primo grado a 19 anni, ha sostanzialmente fatto 4 mesi e poi ha usufruito dell'amnistia degli atti, è entrato in Parlamento, è morto nel 55 come deputato o senatore, non mi ricordo, del Movimento Sociale Italiano. Peppe, la giornata del 5 come sarà articolata? Non è che ci saranno grandi articolazioni, cioè, abbiamo diverse copie di questo volume, proviamo a illustrare, a interloquire, a dibattere e vedere di poi proseguire un percorso di presentazione e di iniziative che riguarderà tutto il mese di ottobre. Allora ricordiamo questo appuntamento con la presentazione del libro Il massacro di Addis Abeba, una vergogna italiana, di Ian Campbell, alla Palazzina Vespignani ad Albano Laziale il prossimo 5 ottobre. E un ringraziamento a Peppe dell'Associazione Culturale Baruffe, un abbraccio in bocca al lupo e a presto, Peppe. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao.